sogno a me un di lontano, mai detto questo sarà il tuo futuro. E giustizia sarà fatta per tua mano contro un figlio spietato e corrotto. Un comandante si ritroverà schiavo e uno schiavo diventerà gladiatore. E attraversando le terre il dolore sfiderà anche l'imperatore. Morir per te. È il mio destino. Roma la bella dea per me ha deciso. Silenzio, ma con l'anima forte, sento che il tempo mi trascina alla morte. Ho visto troppo scempio il cuore mio langue, vendicherò i miei fratelli col sangue. Prometto a te.